Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Buonasera, buonasera e bentornati a tutti qui a tutte, Radio Wombat. A tutte, perché qui, insomma... A tutti e tutte, ovviamente. A tut, con l'asterisco. Tut, perché io sono stata sostituita in queste due ultime puntate, mi sembra. Mi pare, nelle ultime due puntate, se ve ne siete, spero ve ne siate accorti, insomma. C'erano degli ospiti c'erano speciali, degli ospiti, dai. Special guest, molto bene, anzi grazie, grazie mille per essere intervenuti con la vostra riserva. E si spera, insomma, che ci sia sempre qualcuno pronto a intervenire, a venire a trovarci, a portarci i suoi dischini, perché qui siamo agli sgoccioli, come si dice. Segnatevi, segnatevi, che la lista qui si sta ingrossando degli ospiti, sì, si sta cominciando a allungare questa tutti lista. Tutti vogliono ospiti, venire a mettere i dischini, c'è la coda proprio fuori, prendete il numerino, perché in appunto, panchina ce n'è diversi, sono già segnati in diversi. No, lo so, ma io voglio che vengano, non solo che si segnino, quindi grazie a chi è già venuto, grazie ancora. Poi bisogna vedere come si segnano. È quello, infatti. Io mi segno intanto, proprio mi faccio il segno, perché oggi veramente così siamo un po' allo sbando. Allora, direi di dare subito un po' di social Wombat, così ce li leviamo subito. Ci si levi come sì, faccio sempre a Tonight Live. Diciamoli tutti, sì, anch'io. Allora, diciamoli subito, perché perché poi mi passa il sentimento. Quindi direi innanzitutto annuncerei anche che c'è un po' di novità nel palinsesto di Radio Wombat. Sì, nuovi new entry, nuovi arrivi. Vi invitiamo ad andare a vedere sul sito, ovviamente. Tenete sempre d'occhio il palinsesto e il sito di Wombat in generale, con tutte le novità della radio e non solo, di quello che succede in giro, delle approfondimenti, news. Esatto, e i programmi della settimana, insomma degli eventi a Firenze, che sono sempre segnalati dai nostri cari amici di Fuoco alle Polveri, che gli eventi più in di Firenze. Sì. Quindi però se ci volete contattare e così comunicare con noi, darci qualche consiglio, suggerimento abbiamo una mail. Infamarci malamente. Sì, no, era quello magari, se volete ora. A me no, però se volete infamare qualcuno. Ma infamateci anche, io rispondo. Raccogli, vabbè, no, ma è più zen di me, io mi offendo. Qui a me le infamate, no, grazie, anche se magari me le merito. Io rispondo, si guarda chi la dice più grossa. È un competitivo. Allora, senta, la dica lei, che io con questi occhiali non ci vedo nemmeno da qui a lì al pannello. Come sempre, spero ormai ve lo siate tatuato tutti, è wombat.noblogs.org. La nostra mail è sempre posta a wombat@insiberia.net. La nostra frequenza sull'autoradio per la zona di Firenze, in AM, e ribadisco in AM, in onde mediocri, è 1359 per la zona, per chi ci ascolta dalla zona di Firenze, 1359. E poi, siccome non siamo degli obsoleti e dei vecchiardi, abbiamo anche dei canali social. Siamo social. Sì, il Wombat è un po' social. È un po' social il Wombat. Non si rinchiude solo nella tana. Nella sua tana. Usando il suo sedere come tappo della tana. Ah, bello. Che è vero, lo fa sul serio. Certo, è chiaro. Okay. Sapevatelo. Scoprivatelo. Queste ed altre notizie sullo simpatico animaletto. E comunque twitter.com/radiowombatfi. Su Twitter potete trovare tutti gli aggiornamenti minuto per minuto di quando andiamo a seguire in diretta i vari eventi. E poi vi invitiamo anche a mandarci le foto quando vedete in giro i... Bravissimo, il nuovo contest di Radio Wombat fotografa il Wombat. Cioè, quando vedete in giro, così, in Italia, in particolare in altre città, magari tutto a me è capitato, in tutto il mondo... Ma ora in Italia, perché gira in Italia, adesivi di Radio Wombat. A Budapest. Sì, io poi a Torino ho mandato una da Torino. All'ostello Wombat, tra l'altro, infatti. E, insomma, mandateci le foto su Twitter o su Facebook, inviateci la foto dell'adesivo. facebook.com/radiowombatfirenze, esatto. Per trovarci su Facebook. E chi ha il faccialibro. Bene, io direi di dare inizio a questa puntata con una bombetta che era già stata messa, mentre ero qui a sullazzarmi con i volumi del giradisco, dei giradischi, bestemmiando in aramaico. Stavo usando appunto questo 45 che avevo già messo, se non mi ricordo male, nella primissima puntata di Basement Records, ma mentre poi alla fine, quando tutto è sembrato funzionare, mi sono detto: cappero, però questo me lo voglio mettere perché è proprio una bella bomba. E infatti sono i Bar Keys, che erano la, come già abbiamo ricordato, la house band di Casa Stax di Memphis, quindi bomba delle bombe. Scusate. E questo, tra l'altro, mia cara Virgi, lo dovresti anche ricordare, perché fa parte della colonna musica di un famosissimo film di Blaxposition. Sì. Ci sono. If you remember. Ce l'ho, ok, ho capito la citazione, bene, molto bene. È Shaft, ovviamente. È chiaro, e il titolo del pezzo è Il figlio di Shaft, Son of Shaft. Bar Keys, Basement Record, Radio Wombat. I'm the son of a bitch! Era funky. Beh, oh. Se no, se non era funky lì. Bene, sì, l'avevamo. Il film era un po' quello, però la colonna sonora, la colonna musica spaccava veramente il culo in mille pezzi. Sì, molto belle, molto bene. Io direi che non ci allontaniamo troppissimissimo. Insomma, vabbè, sì, però non proprio, non si va proprio all'estremo. Dico insomma perché ho già l'altro disco in mano. Vabbè, comunque. A proposito, prima di tutto, passiamo già alle contrattazioni. Passiamo già alle contrattazioni. Quanti pezzi mi fai mettere di questo disco? Ma io te li farei mettere anche tu te per fare un po' per variare. Ci sono i testimoni. Ho detto farei. Tutti i nostri radioascoltatori hanno allora, sentito cosa ha detto. Fai il bravo, ho detto farei. Intanto ne metti uno, poi te ne scegli un'altra e te lo faccio mettere un altro dopo. Bene. Perché qui sennò se ti prendi la mano, capito? Io lo so come si va a finire qui. Si dorme qui. Allora, siccome è freddino, non ci vorrei dormire qui nella tana del Wombat, con tutto il rispetto. No, ci sa anche la stufa accesa. Sì, però per me è sempre freddino. Per cui, intanto, lei ci annuncia. Sono a mezze maniche quasi. Ma lei c'ha il fisico, io no. Così. È uno snowboarder, non come me, che sono un, non so, un bad boarder. Vorrei che annunciasse questo disco, allora, per favore. Con estrema emozione, fammi aggiustare il microfono perché qui insomma fa parte dell'emozione. E questo disco è a nome del grandissimo Sonny Rollins, di Theodore Walter Rollins, detto Sonny, ed è una raccolta. una raccolta uscita nel 1989 e da quello che posso vedere dalla scaletta è una raccolta di tutte le varie incarnazioni delle formazioni di questo grande leader del bebop. E tutta roba, a quanto vedo, tra la prima metà degli anni 50. E la prima che volevo mettere, cioè sono tutte, non ve lo sto nemmeno a dire, cioè formazioni clamorose. Sono. E il primo pezzo che volevo far sentire da questa raccolta è Doxy, che non è a nome di Sonny Rollins, anche se l'ha scritta lui, ma bensì del Miles Davis, niente proprio di meno che del Miles Davis Quintet, esattamente nell'incarnazione del quintetto di Miles Davis del 1954. Esatto, perché infatti niente proprio di meno che ovviamente Miles Davis alla tromba, Sonny Rollins al sax tenore, Horace Silver al piano, Percy Heath al basso, al contrabbasso ovviamente, e Kenny Clarke alla batteria. È un pezzo che ha vissuto tantissime incarnazioni anche durante gli anni 60, c'è anche un'altra versione sempre del 62 di In Our Men in Jets di Sonny Rollins di questo Rollins. Pezzo qui. Insomma, ci sono varie versioni, varie, insomma, sì, no, varie, certo, come di uso e costume nel jazz, poi pezzi che magari inizialmente erano in un modo, poi con le varie evoluzioni delle formazioni e via via a forza di suonarle, arrivavano anche a essere canzoni completamente diverse nelle varie incarnazioni, poi nell'evoluzione degli anni. E se mi posso permettere, prima di far iniziare questo Doxy del Miles Davis Quintet, se proprio siete a digiuno del grande Sonny Rollins e volete iniziare a conoscerlo, quantomeno è il mio preferito di Sonny Rollins, vi consiglierei sicuramente per iniziare a conoscerlo Saxophone Colossus, che è un disco, un caposaldo direi del bebop di fine anni 40 inizio anni 50. E dopo questo pippone che vi faccio quando trovo qualcuno che mi piace, ora sentiamoci finalmente il Miles Davis Quintet del 29 giugno del 1954 con la loro Doxy. Tonight, Basement Records, Radio Wombat. Thank you. questa era Doxy del Miles Davis Quintet con Sonny Rollins al sax tenore. Veramente, sono in estasi. Va bene, sono un vecchio, mi piace il jazz, sono in estasi. Puoi usare anche il plurale, siamo dei vecchi, cioè, non è che mi offendo, è la verità. Ma ce li portiamo bene. Insomma, lo lascio fuori questo disco. Sì, dai, vabbè, l'hai capito tanto, va, lascialo fuori. Tanto è una battaglia persa con lui, non è che io non ci provo. Ma sei te che porti sti dischi, e non ci provo a fargli mettere una. No, no, hai ragione, infatti il 50% del problema sono io, quindi non capisco, però se do retta a te si mette 40 tracce, sì, capisci, si sta qui fino a domani, va bene. Proseguiamo con, oggi è davvero super, super album. Proseguiamo con un veramente stra iper mega classico, che di più non si può. In realtà, come tutte le cose nate alternative, diventano poi le più veramente, perché questa era veramente avanguardia, quando era uscito, appunto, come tutte le cose che nascono alternative nascono avanguardia. E poi e mi ricordavo 67, invece è 1966, vedo sul centrino 66, The Velvet Underground e Nico, il famoso album prodotto da Andy Warhol con la banana sul copertina, che vedrete poi anche nella foto che facciamo sempre e mettiamo nel podcast. E che dire, vabbè, veramente, boh, c'è poco da dire di quello che già non si sa di questo album, che mi auguro veramente tutti abbiano almeno sentito qualche traccia. È il primo album di Velvet Underground, l'ensemble statunitense, che registrò con la collaborazione della cantante tedesca Nico appunto nel 66 e pubblicato poi per la Verve Record nel 67. Le tracce veramente sono, sono e curiosità da collezionisti, la prima edizione di Velvet Underground e Nico, quella originale proprio fatta da Andy Warhol, aveva la banana in copertina che era sbucciabile, attaccabile, sì, sì, che era sbucciabile, quelle... e adesso beato chi ce l'ha, e adesso quell'edizione lì vale una, esatto, uno stonfo di soldi, ammesso e non concesso che non abbiate sbucciato la banana, altrimenti niente. Ovviamente, altrimenti niente. E la nostra, noi siamo dei poveracci, per cui la nostra versione, nonostante sia quella del babbo, sicuramente acquistata molte decadi fa, ma non è ovviamente quella. Quella lì è quella con la serigrafia, così, con la copertina, insomma, con la serigrafia della banana. E comunque pompetta. Sì, sì, sì, che c'entra. Però non è, ovviamente non ce la possiamo rivendere per miliardi, se no il babbo l'avrebbe già fatto, ovviamente. Ma con una bella opera di decoupage, se ci metti, si prova. Cioè, mi metto lì, se mi vede col trincetto in mano vicino al disco, finisco io al museo. Subito il puntino rosso in mezzo alla fronte. Finisco sul giornale. Bene, molte tracce rimaste più che celebri, veramente diventati tormentoni, direi tutte: Sunday Morning, Waiting for the Man, Femme Fatale, che dire, veramente, cioè, Run, insomma, All Tomorrow's Parties, sì, cioè, tutte queste tutte sono state fatte e rifatte, dall'altro European Song, anche dagli stessi autori, insomma, anche Lou Reed poi l'ha rifatte nelle sue Heroin. Esatto. Si può mettere più di un pezzo? Dai, no, oggi veramente c'è un deficit dell'attenzione, non riesco a tenerlo concentrato, veramente. Toccherà cominciare a dargli il Ritalin. Vabbè, Aldama. Povera scimmietta che batte i piatti. Mamma mia. Allora, te l'avevo fatta scegliere una, l'avevi scelta. Intanto sì, mettiamo sì. Quella. Va bene. Va bene? Che comunque non dura manco poco. Se mi conoscete un attimo ormai, ovviamente ho scelto Venus in Furs. Chiaro, che era quella che avevo scelto anch'io. Per forza, con Cale che scortica la viola e fa questo effetto fantastico di questo pezzo, pura avanguardia, anche se completamente calato nel rock di metà anni 60, cioè che poi, vabbè, rock nel senso più ampio del termine. E tra prima, l'altro, anche il titolo è, vabbè, no? La Venere in pelliccia, se è una situazione. Se non ricordo male, era dedicato a un tipo a a una manifestazione, a un evento, a qualche cosa. Sì, questa... e poi c'è il doppio, chiaramente il doppio significato della Venere in pelliccia, che è riferito, ma anche ovviamente credo al testo, no? Sicuramente. Quindi di Masoch, insomma, e poi è divenuto film, e poi di nuovo ora un film di Polanski, insomma c'è tutto un rimando piuttosto... alto, ecco, così, se un ne secondo significato. Come mai sei qua? Siamo qui apposta, non ci dici niente. Sì, no, appunto, credo, comunque la Venere in pelliccia, appunto, il visore sulla pelle e via via, ma sì, se ne può parlare, però si andrebbe veramente in altri campi, rimanendo al campo musicale, e credo che comunque ci sia questo rimando, sicuramente, come dicevi te, a un episodio, anche a me sembrava di, insomma, di un avvenimento. Cioè, e... proprio la nascita del pezzo, nel senso era stato... Sì, però appunto il titolo rimanda anche alla, è così, alla Venus in Furia, alla Venere in pelliccia, celeberrimo, insomma, testo di Masoch, da cui poi viene preso il termine masochismo, anche se in realtà, insomma, vabbè, ci sarebbe da fare un discorso lungo sull'estetica del piacere e del dolore, che è sicuramente... una chiamata in arrivo da The Sad, esatto, anche sì, che sicuramente Lou Reed, ecco, conosceva sicuramente, e di sicuro questo è un riferimento, però noi intanto ce l'ascoltiamo sì, prima di farlo sentire, giusto per rimanere sullo scolastico come sempre, magari i più giovani possono non ricordarsi bene che era questo favoloso quintetto del primo album, sì, dei Velvet Underground, non l'ho annunciato. Lou Reed, John Cale, le due menti supreme che stavano dietro ai Velvet Underground, Sterling Morrison al basso e alla chitarra ritmica, la mitica Maureen Tucker, mai troppo osannata tra i batteristi, e Nico, la chanteuse europea. Con la sua freddezza teutonica. E che dire, anche il testo, insomma, se uno lo ascolta bene, se uno lo legge, ecco, come vi dicevo, rimanda, infatti leggevo appunto, cercavo la conferma a quello che avevo detto, che non volevo così che fosse una mia teoria, ma immaginavo di no. Infatti il testo trae ispirazione dal romanzo, appunto, La Venere in pelliccia, Venus in Furia, scritto da Leopold von Sacher Masoch, e da cui appunto poi le teorie psicanalitiche hanno proprio citato, hanno chiamato, no, una certe pratiche, appunto, masochismo, proprio da questo autore, anche se in realtà appunto è un po' una esagerazione, ovviamente è un'estremizzazione, perché in realtà il testo appunto ha tutta una sua storia, il libro ha tutta una sua storia, che parla sì anche di questo personaggio che trae piacere nel dolore e del perché è arrivato dalle sue esperienze di vita a questo. Chiaramente questo non poteva sfuggire a un furbone come Lou Reed, perché che fa allusioni continue appunto al sadomasochismo e al bondage e alla dominazione sessuale in questo testo. Quindi c'è poi, appunto, come vi accennavo, se vi interessa l'argomento, un bellissimo film di qualche anno fa di Polanski, in cui appunto un regista teatrale rimette in scena la Venere in pelliccia, e insomma, suo malgrado, scoprirà che la donna che ha scelto per interpretarlo diventa proprio appunto un gioco così di potere, di piacere, di dolore. Molto bello, se non l'avete visto. Ve lo consiglio. Bene, dopo questa parentesi di cinema, di riferimenti al cinema, ci sentiamo Velvet Underground e Nico, Venus in Fur. Chiaramente a Basement Records, Radio Wombat. We'll be right back. E questa era Venus in Furs, chiaramente. Eh sì, allora, quindi noi dalla Venere in pelliccia dei Velvet Underground passiamo a un altro, così, a un altro disco. Non un altro genere, dai. Sì, un altro genere, anche se, vabbè, si può dire anche un po' figlio forse di questo in certe cose. E, se non mi sbaglio, stiamo passando agli Smiths. Esattamente, giusto? Esattamente. Eccoli, amati, amatissimi. Qui sono io e voglio mettere più tracce. Si fa? Si mette. Se ne approfitti. Quante ora, se ne perché io ho le mie debolezze. È addirittura doppio. Sì, ecco, ce l'ha lei lì e ci dica. È addirittura doppio. Ci dica titolo di questo. Allora, disco. Questa è. Credo. È una raccolta, o è sì, proprio è una raccolta, credo, sì, degli Smiths, Handful of Hollow, ed è una raccolta, l'anno non c'è, però è un bel doppio, e con una copertina tra l'altro fantastica, con questa foto interna, molto che stavamo molto bella, si apre, apprezzando, cioè, prima foto appunto centrale tra le due parti del disco, molto bella veramente, in cui ci sono i componenti della band. E tra l'altro con Andy Rourke in primo piano al basso. Sì, è una compilation, tra l'altro così, del novembre dell'84, quindi insomma. E appunto registrata per la Rough Trade, e benemerita, sì, registrata per la Rough Trade, leggevo appunto che niente, contiene molti dei successi insomma fino a quel momento degli Smiths, abbastanza insomma abbastanza nota, proprio perché contiene molti dei pezzi, dei successi, anche se non proprio quelli più scontati, insomma, non, no, c'è infatti proprio i pezzoni, vedo, quelli proprio più, che sono abbastanza ricercati. Sì, ma è interessante proprio perché non è la Greatest Hits, quella classica, ora di pezzi proprio famosissimissimissimi, forse c'è, insomma, ce n'è, non ce n'è tanti, però è interessante proprio perché in realtà appunto si compone un po' di B-side, di pezzi che non erano magari stati, che non erano usciti come singoli, ecco. E tra l'altro precede Meet Is Murder dell'85, che abbiamo già messo, che avevamo già stato messo, uno dei nostri dischi, sì, io veramente più amati. E quindi questo dell'84, questo Hatful of Hollow, e in realtà è un secondo disco, perché il primo è sempre dell'84, che è The Smiths, poi c'è questa Hatful of Hollow, e poi seguirà Meet Is Murder, quindi insomma. Ah, quindi è proprio un disco, non è una raccolta. No, è una raccolta, però si pone tra i due, tra The Smiths e Meet Is Murder, quindi insomma abbastanza all'inizio, ecco, strano che sia una raccolta così a inizio sì, carriera. Qui dice compilation album, in realtà sì, cioè aveva sia dei pezzi originali probabilmente che dei pezzi già usciti, non erano tutti già usciti, appunto alcuni erano delle B-sides, leggevo appunto, insomma era una facciccia, era un misto. Quell'anno dopo esce Meet Is Murder, quindi ecco. Che dire, pezzi come, cioè, non, ovviamente l'imbarazzo della scelta, noi ci siamo scelti, se non mi sbaglio, la prima dal secondo lato. Esattamente. Giusto? Che è Heaven Knows I'm Miserable Now. Esatto, sempre insomma, sempre degli allegroni, gli Smiths, sempre così, sempre presi bene, presi benissimo. Quindi ci ascoltiamo questo singolo. Chiaramente a Basement Records, Radio Wombat. Drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was E rieccoci. Così qua, così qua. Volevo fare un'annotazione. Sì. Per magari i più attenti avranno notato che ho fatto una delle mie. Vabbè, dai. Ho fatto una delle mie, ovvero ho lasciato il pitch a più 5. Che disastro. Dalla sigla da Psyche Rock di Lazy Pear Sound. E quindi tutti i dischi suonati fino ad ora, tranne quello degli Smiths, per i più attenti erano tutti velocizzati a più 5. Pochino, va bene. No, infatti si sono... Non è che si sentisse particolare. Secondo me se non lo dicevi non se ne accorgeva nessuno. Comunque, però per lei i più onesto, attenti bisogna onesto, essere onesti, perché poi magari ti ascoltano e guarda questa banda di pellegrini, che davvero. Già, voglio dire. Bene, è vero, quindi all apologies. Sì, ci cospargiamo la testa di ceneri. All apologies e andiamo avanti. Proseguiamo con qualcosa di insomma, abbastanza diverso, anche se gli anni poi in realtà insomma sono abbastanza sì, gli stessi, meno, sì. Anzi quasi gli stessi. Ecco, questo veramente è un po' una news, non l'avevo mai portato questo, non l'avevamo mai messo. Almeno non mi sembra. Sono i 10,000 Maniacs e con il loro In My Tribe. Che dire, In My Tribe è il terzo album discografico in studio del gruppo statunitense 10,000 Maniac, pubblicato nel 1987. Per questo vi dicevo, negli anni siamo rimasti, ecco, siamo lì. Siamo stati bravi, siamo rimasti così un po' negli anni, negli stessi. Si compone appunto tutte le tracce che compongono l'album sono state scritte da Natalie Merchant. Davvero c'era la Natalie nei 10,000 Maniacs? Sì, Natalie Merchant, che appunto risultano tutte sue fondamentalmente le tracce. Questo album addirittura porta collaborazioni, addirittura Michael Stipe nella decima traccia Campfire Song, magari ci potremmo sentire proprio quella. Interessante questo guest. Addirittura nella settima invece Pete Strain, compare Cat Stevens. Quindi insomma un album. Quindi insomma credo di intendere che dobbiamo mettere più di un pezzo di questo album. Allora, no, ho capito male? No, va bene, allora intanto ho scoperto che c'è Michael Stipe nella DS e la voglio sentire. La vorrei sentire come primo o come modo. Seconda? Va bene, allora se ne mette due di questo? Va bene. Ce n'era diversi da metterne due, sì. Eh? Allora prima di mettere... Io ho già segnato già tutto. Un'ora, ho già segnato tutto. Qui stiamo ancora, avanziamo diversi pezzi. Va bene, va bene. E niente, appunto, non avevamo appunto mai. Non mi pare, vero? Non avevamo mai visto niente dei 10,000 Maniacs, no. Quindi non lo so, ora vabbè, sono comunque conosciuti, però per chi non li conoscesse, sono stati insomma un gruppo abbastanza famoso dell'alternative rock appunto degli anni 80 americani, ha spesso cambiato, spesso insomma i componenti si sono alternati, tuttora attivo tra l'altro, leggevo, non lo sapevo. La più nota dei membri è appunto Natalie Merchant, come dicevo, autrice di tutti i pezzi di questo, praticamente tutti i pezzi di questo album, che nel 93 però lascia i 10,000 Maniac per una carriera solista. Quindi diciamo della prima formazione citiamo Natalie Merchant, Mary Ramsey, Rob Buck, John Lombardo, Dennis Drew, insomma ecco, questi erano un po' così. Steven Gustafson. Esatto, la prima la prima formazione, tuttora appunto in attivo, con un'altra formazione, e noi appunto vi presentiamo queste tracce tratte da questo nostro album, che è appunto In My Tribe dell'87, anche questa copertina incredibile, veramente bello, lo vedrete poi nella foto con tutti i bambini che tirano con l'arco, c'è questa foto bellissima di tutti questi bambini con l'arco in mano, Si compone appunto di numerose tracce celebri, tra cui Jack Kerouac, What's the Matter Here, Peace Train e appunto questa Campfire Song con l'ausilio di Michael Stipe. La sentiremo per seconda, però. Va bene, sì, perché la prima che avevamo scelto, prima che io così, che mi accorgessi che volevo sentire anche quest'altra, era Jack Kerouac, o sì, la prima. Esatto. Che è la seconda, appunto. Visto il titolo, non potevamo non sì, scegliere no, per prima questa, ovviamente, dai. Siamo un po' pisteri, quando abbiamo visto Jack Kerouac, abbiamo detto, allora si mette, perché Jack Kerouac, leggerezza, va bene. Sì. Quindi, on the road... Se non l'avete letto, eh. No, vabbè. Chi è che non l'ha letto? On the road, dici? No, ma anche, cioè... Anche il resto. Anche il resto, sì. Dottor Sax. Sì, sì. Ce n'era un altro poi bellissimo. La vedo preparata. Non letti un po', però nella mia gioventù, quindi era ancora i libri erano ancora fatti con i papiri. Eh sì, erano ancora fatti di carta. E soprattutto mi ricordavo molte più cose, perché ce n'era un altro di Kerouac. Ah, il mio preferito, ancora più di On the Road, sì. Forse Vagabondi del Dharma. Sì, beh, mamma, Vagabondi quello del è stupendo. Forse ancora più di On the Road è proprio il classico. Anch'io Kerouac, sono d'accordo, ovviamente. Come sempre con lei, Vagabondi Ma del Dharma. Vagabondi del Dharma è fantastico. Le dirò che nella tradizione perde un po' di fascino. Perché il titolo in originale, se non mi sbaglio, il titolo in originale è ancora più bello. Lo dirò dopo quando trovo la traduzione, perché ora non me lo ricordo, però... Intanto facciamo partire ci perde il pezzo. Intanto è Jack Kerouac dei 10,000 Maniacs. Chiaramente a Basement Records, Radio Wombat. Thank you. Sì, bene, dicevamo appunto, ora parlavamo di Kerouac rispetto a, questo, a questa traccia che è appunto dedicata allo scrittore che lo cita, e poi parlavamo invece appunto di un altro famosissimo libro di Kerouac, oltre la strada, I vagabondi del Dharma, e si diceva appunto che è l'originale, The Dharma Bonds, è veramente un titolo più degno, ma come sempre le traduzioni in italiano ammazzano un po' così la poesia. Non è andata male. Non è andata nemmeno malissimo, cioè, se mi lasci ti cancello. Ah, va bene, quello, vabbè. Sui film lasciamo perdere, proprio un'altra polemica e non la voglio aprire adesso perché sarebbe infinita. Tra l'altro l'ho visto qualche mese fa, non l'avevo mai visto. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Bellissimo, bellissimo, mi è piaciuto un sacco. Ah, ci credo. Quando Gondry ancora era parecchio nei suoi cenci. Madonna, lì c'aveva una pompina udita. Lì era parecchio. Era un bello davvero, se non l'avete visto, guardate. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, io lo trovassi, ora il dottore quello lì che ti leva le cose, me lo farei fare, guarda, ti dico la verità. Anche se ovviamente il film insegna altro, lo so. Dovresti aver recepito la lezione. Però poi quando uno sta male dice ma sai che, ma io mi faccio cancellare tutto, non ci penso più. Però. Andando avanti invece, ci sentiamo un'altra traccia da questo album, perché abbiamo scoperto che in questo album The 10,000 Maniac, appunto, c'era una traccia che vedeva partecipe Michael Stipe. E noi ce la vogliamo sentire. The R.E.M. Memoria. Esatto. Ce la vogliamo sentire e ce la sentiamo. Ma la velocizziamo a più 5. No, ma la faccia normale, per favore. Normale. Perché poi con questa scusa si tocca risentirle tutte dopo. Sì. Capito? Lui lo fa apposta. Lascia il pitch e così poi dice: ah, ma abbiamo sentito troppo veloce, l'aveva risentito. E qui fino a domani. Va bene. Bene, sentiamoci questa A Campfire Song dei 10,000 Maniacs con Michael Stipe. Yeah. questa era la doppietta dei 10,000 Maniacs. Che ecco, sì, abbiamo riscoperto, ritirato fuori, bene. Sì, perché non le avevamo mai messe, no, ancora. Che l'ho ritrovato ora questo ne disco. Valeva, quindi... Ne valeva la pena, sinceramente. Sì, sì, sempre un po' dalle parti, appunto, dei Rem, degli Come Smith, si diceva fuori onda, sì. Un po' quel genere, un po' lì, quel periodo lì. Bene, allora, siccome... Avevamo saremmo a fine. Qui c'erano però... dei fatti in essere, c'erano dei fatti in essere. È vero, ho promesso, mantengo fede, quindi vada pure libero. Posso andare? Col bis, sì. Posso andare? Questo è il momento del bis. Quindi io ritiro fuori questo meraviglioso disco su etichetta Giant of Jets, e quindi vi potete già immaginare chi sto rimettendo. Questa volta però ve lo farò sentire a velocità normale, ma non rimetterò il pezzo di prima con Miles Davis, secondo me, anche se era a più 5 comunque... Rendeva comunque l'idea, non c'era più di tanta differenza. E invece in questo caso, sempre chiaramente da questa raccolta di Sonny Rollins, che ancora non ho detto come si chiama, ma si chiama Vols Hot, e in questo caso metterò un pezzo che si chiama Friday the 3rd, ovvero venerdì 13, mm-hmm. E in questo caso... Non è neanche in questo caso a nome di Sonny Rollins, ma bensì a nome del Thelonious Monk Quartet. E scusami. Thelonious Monk già presentato ampiamente in una puntata di Tonight Alive, autentica leggenda, sia come musicista che soprattutto come compositore dell'epoca bebop, e veramente uno... Anche lui uno dei pilastri del bebop e del jazz in generale, cioè ha inventato e costruito quelli che poi sono diventati degli standard, dei grandi classici del jazz reinterpretati da chiunque. E in questo caso questa è una registrazione fatta il 13 novembre appunto del 1953 nel New Jersey, a nome di Thelonious Monk Quartet, con Thelonious Monk al piano, Sonny Rollins al sax tenore, Julius Watkin al corno francese, Percy Heath al contrabbasso e Willie Jones alla batteria. Questo corno francese mi fa pensare che siamo già nel periodo del cool jazz, quello che poi avrà, che diciamo tra virgolette inventato Miles Davis con il suo album, uno dei suoi mille album epocali, in questo caso sì. Mi sono incartato, io la seguo. French horn eravamo, sì no, ma il corno francese, ora mi stavo ricordando il titolo dell'album di storico di cool jazz di Miles Davis, The Birth of the Cool. Madonna, l'età. Vabbè, insomma, accidente, se l'hai ricordato alla fine, guardi, quindi insomma, perdiamo un po' di colpi, ma poi ce la facciamo ancora. E quindi questo è Friday the 3rd del Thelonious Monk Quartet con Sonny Rollins al sax tenore, e ce l'andiamo ad ascoltare subito a velocità normale. Thank you. We'll be right back. Era il Thelonious Monk Quartet e quindi è riuscito a sentire un'altra traccia da questo disco, mi frega sempre. E direi invece che vi lasciamo su un'altra traccia che sono riuscito a conquistare oggi, due doppie, anzi tre, perché anche 10,000 Maniac. Allora, stasera ci siamo stati. E quindi vi salutiamo, vi lasciamo con un altro pezzo da Velvet Underground, Nico. Come facevo a non mettere Velvet Underground e sì, Nico? Spiegamelo. Non si poteva fare la così il bis anche da questo, perché è veramente un album storico. E quindi ci andiamo a ascoltare Heroin, ovviamente, per chiusura per chiudere di in bellezza veramente Heroin. La serata. Vabbè, e... si mette questo e poi si saluta dopo? O si saluta e si mette questo? Io direi mettiamo questo come DJ, quelli va veri bene. Che lasciano la traccia. Va bene. No, non si ridice nulla dopo, sei sicura? Perché il Dalai Lama c'ha l'ansia da separazione, voi ormai la sapete questa cosa. Lui gli viene l'ansia. Sicura? No, gli viene l'ansia, ancora, paura ancora. E poi così si chiude. Paura. Va bene, allora mettiamo questa traccia e poi saluti. Bene, brava, Perché non voglio dormire così qui. Così mi piace. Va bene. Heroin, Velvet Underground e Nico, Basement Records, Radio Wombat. Thank you. E questa era la traccia di chiusura di stasera, Heroin dei Velvet Underground. E Nico, sì, qui avrete magari abbiamo avuto un po' di problemi, magari si è capito avrete come mai, notato che in questo mix che rinomineremo Wombat Industrial Mix, esatto, tra l'altro, si sentiva benissimo la viola di John Cage, il resto boh, e, però, e la, direi anche la batteria, sì, della Mo Tucker, però ad esempio niente, la voce di Lou Reed era un'idea, non un'immaginazione. Non si è capito come mai, qui a seconda del lato che si mette e cambia. L'altro lato fu, questa era la prima traccia del lato B. Il lato A funzionava bene. Il lato B non gli è piaciuto. Non si sa mai qui nella tana del Wombat. Particolare, diciamo. Ogni dai, volta che cambi lato, cambia la qualità. Vabbè, ci attrezzeremo per farvi sentire sempre, insomma, sempre di più e sempre meglio. Intanto vi salutiamo. Vi diamo appuntamento a. Ma rinnoviamo l'appuntamento, sì, con le frequenze di Radio, chiaro, Wombat. Con la prossima diretta, che sarà domani domenica alle 18 alla Fuga del Gatto, con qui però domani in solitario, mi sa, perché domani io sono la Bloody Mary, sì, sarà in solitaria con la Fuga del Gatto, solitaria andiamo, Fuga del Gatto per questo febbraio è stata un po' solitaria, sì, però insomma torneremo in il pomeriggio in coppia di musica classica di, sì, Radio Wombat, il ripiglino della domenica, sì, dove ci allietate sempre, sì, mi immagino, ce la vedo lei ascoltare la Fuga del Gatto, certo, guardi, con la bava alla bocca sul aspetta divano, lì alle 6 è lì. Ah, io la controllo, poi le faccio le domande, lo so. Davvero. Sembra male, qualcuno ci ascolta. Il ripiglino della domenica, sempre, però, insomma, ricchi premi e cotillon, sempre argomenti di qualità per gli amanti della musica classica e dintorni, diciamo anche, dai. E poi si prosegue la programmazione, sempre dalla prossima settimana, di Radio Wombat, con tutte le nostre dirette e repliche. E musica, informazioni, chi più ne ha più ne metta. Vi rimando appunto al nuovo, così a controllare il nuovo palinsesto, ci sono new entry, un po' di cambiamenti, così nella programmazione della Wombat Radio. Noi ci ritroviamo non questa che viene, ma la settimana dopo con Basement Record, lo appunto, so, in alternativa. Ormai è diventata molto random, non si sa. È un po' random, c'è, è un po' sorpresa. Quando ci sta Jack, esatto, quando ci sta roba, c'è Basement, si va. Quando c'è gli siamo ospiti, diventati un po' a caso, però tanto poi lo trovate comunque in podcast, quindi ve ne accorgete. Ve ne accorgete, comunque qualcosa ci sarà sempre, o sì, tonight o basement qui vi, così. A sorpresa, ormai è diventato un po' a sorpresa, era una settimana sì, una no, e poi ci siamo persi il ritmo, poi ci sono stati gli ospiti. Rinnovo l'invito appunto a chi avesse minacce in cantina, con le minacce di fateci tirarle la grappa, su, mi raccomando, di tirarle su e poi portateci sia la grappa sia i vinili. E appunto ringrazio ancora gli ospiti. Ottima idea. Hai visto? Portate anche la grappa insieme ai vinili. Vedrai, che apprezziamo qua. A me anche, appunto, anche così, anche due cioccolatini mi vanno bene, se ce l'avete. Quelli con i kirsch, certo, dentro. tutti li prendo, senza distinzioni. Siamo proprio altro che Heroin, qui siamo proprio a dei livelli. Bene, vi salutiamo e alla prossima. Con Basement Records. Ciao a tutti. Ciao, buon sabato sera. Ciao.